Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia. Grazie a Radio Big World, io sono Gabriele. Di cosa vogliamo parlare oggi? Oggi parliamo, facciamo un ripasso generale per quelli, per i nuovi arrivati, per chi è arrivato da poco in questo nuovo mondo piatto. Ultimamente ho trovato un sacco di persone con cui ho parlato, a cui ho chiesto se erano a conoscenza di questa misteriosa teoria della Terra piatta, o comunque avevano mai sentito parlare della Terra piatta in generale, e tutti quelli, ovviamente ragazzi giovani, credo, e comunque la maggior parte, no, la maggior parte, tutti mi hanno risposto no, non ho mai sentito parlare. Quindi, come, da dove, per me, da dove è iniziato tutto? E all'inizio non ci volevo credere, pensavo fosse la cosa più assurda di mondo, anche io, e io vi vorrei far vedere le facce che hanno fatto quando gli ho chiesto se avevano mai sentito parlare della Terra piatta. Ma come fa qualcuno a credere che non sia un globo, una palla, come ci hanno sempre fatto vedere? Lì per lì, all'inizio, quando guardavo, ho visto questa cosa per la prima volta, ho detto: questa è una cavolata, la smonto in 5 minuti. Però all'incirca, dopo quasi un mese praticamente scavando veramente attraverso le informazioni che trovavo, ero già, senza rendermene conto, ero già un terrapiattista. Anche se non mi piace usare il termine terrapiattista, è brutto, è anche un po' ridicolo, però diciamo che ci definiamo così. Quindi nessuno nasce già con questo pensiero, quel pensiero della menzogna, della bugia, che ci hanno mentito. Di solito ci si arriva da una delle teorie, delle cospirazioni, come può essere il 9-11, cioè l'11 settembre, i vaccini, il fluoro nell'acqua, le scie chimiche, queste cose qui, fino ad arrivare uno scava e arriva alla verità, perché non è solo la forma, riguarda la forma della Terra, ma c'è molto di più oltre alla forma della Terra, ci sono veramente un sacco di cose. Uno dice: come ho fatto a non rendermi conto che mi hanno preso in giro per 20 anni, per 30 anni, 40 anni della mia vita? Ve lo spiego. Perché vai a scuola e assorbi quelle informazioni che ti tengono, che ti vengono dette, come che la Terra è una palla rotante nello spazio, prima che tu possa pensare con la tua testa, prima che inizi a pensare con criterio. Quindi spendi il resto della tua vita in quello stato di programmazione, perché l'hai appreso così da giovane che diventa indiscutibile. Ma quello che è successo è che i terrapiattisti che ci sono ora sono tornati indietro e hanno guardato con altri occhi il modello eliocentrico per scoprire cosa, che è incredibilmente ridicolo. E difficilmente quello che vi è dentro questo sistema eliocentrico è stato mai provato, inclusa la curvatura e il movimento della Terra. Su questo non c'è dubbio. Quando parlo con qualcuno riguardo alla forma della Terra, non ha idea di cosa sia e lo rifiutano a prescindere da quello che gli dici o gli mostri. No, non è uno scherzo, Eppure la NASA spende 50 milioni di dollari al giorno e 90 bilioni di dollari all'anno. Non è uno scherzo. Quindi perché non voler guardare? Cioè, avete paura di cosa? E noi stiamo a litigare, a discutere, no? Su quando, non solo oltre all'Agenzia Spaziale Italiana, di cui fanno parte 22 stati, dell'ESA, che è l'Agenzia Spaziale europea, questi 22 paesi sono Australia, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Quanti soldini vengano buttati via? Poi, l'ESA ha la propria sede centrale a Parigi, dove, come ci dicono i Rammstein, di fronte a Parigi, all'ingresso di Parigi, c'è Disneyland, c'è Topolino, c'è Mickey Mouse. Chissà perché. Comunque, ci sono un sacco di... La sede centrale è a Parigi. E poi c'è l'EAC, l'ESAC, l'ESOC, l'ESRIN, l'ESTEC, l'EXSAT, l'ESA, REDU. Cioè, sono all'incirca 2200 persone che lavorano per l'ESA, qualcosa di genere. E non dico che tutti sono a conoscenza o sanno, o che tutti... queste persone ci prendono in giro, conoscono la verità e ci prendono in giro. No, assolutamente, come quelli della NASA. La maggior parte non ne hanno assolutamente idea. Guardano la roba elettronica e dicono: io ho fatto il mio lavoro, si è mandato chissà quanti satelliti. No, non hai mandato niente. Hai continui, contribuisci senza volere o volendo, questo non si sa, a sfruttare la razza umana, a mentire la razza umana, a mentire a tutti, ai tuoi concittadini, ai tuoi simili, a tutti. Quindi da dove provengono i fondi per tutte queste persone, per tutte queste costruzioni, per tutti questi programmi spaziali che fanno? Arrivano, sono finanziate con il contributo economico di tutti gli stati membri dell'agenzia. Forte. Il budget ESA per il 2017 è di 5,75 miliardi di euro buttati via. Potrebbero essere spesi per la medicina, per le cure, per non far pagare le medicine importanti a chi ne ha veramente bisogno, le cure a chi ne ha veramente bisogno, dato che costano un fottio. Non so se avete mai avuto qualcuno malato, veramente malato vicino, ma è una spesa mostruosa. Lo Stato non è da punte parti, però appena c'è da prendere qualcosa, come arrivano subito a pigliarti i soldi, quando, anche se non hai lavoro, anche se hai figli, ben a prescindere, non gliene frega niente di come stai, non gliene frega niente a nessuno. È inutile che litighiamo, che litighiamo per chi va su nella poltrona. A questo punto era meglio se c'era il re, almeno sapevi con chi rifattela, era lui, era la famiglia reale. Invece no, oggi sono tutti a promettere, a dire cosa, tutti, non fa da destra a sinistra, da sinistra a destra, è uguale, in mezzo, su, giù, in alto, in basso, non cambia niente, sono tutti dei buffoni e dei bugiardi. Perché tanti politici lo sanno di tutte queste cavolate. Volete che uno sappia qualcuno di tutti questi soldi che fine fanno invece che andare nello spazio per i satelliti? Ma stiamo scherzando? E questo solo in Europa, l'Agenzia Spaziale Europea, 5,75 miliardi di euro. Ora non è niente a confronti che spende la NASA, quindi rendetevi conto, no? E poi invece vediamo i ragazzi protestare contro un politico per le idee che ha quel partito, invece di andare contro chi davvero ti ruba soldi, che sono tutti. Ora, probabilmente un pochino è violenta questa puntata, mi innervosisco quando sento che rubano soldi alle brave persone, perché ci sono delle brave persone là fuori, non sono tutti dei bastardi. Ci sono delle brave persone che vengono sfruttate, che si fidano. Queste persone, come me, io mi fidavo dello Stato, mi fidavo del governo, mi fidavo delle Nazioni Unite, mi fidavo di chi era incaricato di proteggerci, di aiutarci, di migliorare le cose. Invece no. Invece no. Zero, zero assoluto. Nessuno fa niente. E continuiamo a litigare e a darci contro l'un l'altro, a dare la colpa a chi la colpa non ne ha. Però abbandoniamo un attimo questo discorso e torniamo a noi. Chi crede nella terra piatta dice che questo famoso muro di ghiaccio, per chi non ne ha sentito parlare, tanto ora ve lo spiego, c'è questo muro di ghiaccio che ci circonda, e considerato che dal 1961 nessuno può andare per via dell'Antarctic Treaty, non può essere provato, ma qualcosa deve pur tenere l'acqua, non pensate? Ha molto più senso. Sappiamo che l'acqua non cade dal bordo, né le barche cascano dal bordo, quindi sono tutte congetture ridicole per fare in modo che le persone deridano i terrapiattisti quando ne sentono parlare. Il fatto è che il muro di ghiaccio, questo muro di ghiaccio, è stato nelle mappe per centinaia di anni. La prima mappa che rappresenta la Terra con il muro risale a circa l'anno 1000. A quei tempi era solo chiamata mappa, ma poi è diventata Azimuthal Equidistance Map, che dicono è stata ripresa dal globo, quando in realtà è il contrario. È il globo la versione rotonda della mappa e non rappresenta la realtà. Molti sono arrivati alla terra piatta per via della Bibbia, perché nella Bibbia dice che è immobile e piatta. Ora, io non sono religioso, ma chi come me ha cercato e ha visto che non c'è nessuna curvatura e non si può rilevare la velocità della terra, uno, due domandine se le fa. Quello che abbiamo imparato a scuola è solo una teoria, è solo una teoria. In pratica ci hanno letteralmente preso e portato nello spazio la testa. Le stelle non sono centinaia di milioni di anni luce lontane. Il Sole non è 149 milioni di chilometri lontano. Fa tutto parte di questo sistema. È un sistema chiuso e non è quello che ci hanno insegnato. Quando guardiamo il cielo di notte e quelle luci che chiamiamo pianeti, è tutto all'interno, è chiuso, non c'è nessun viaggio nel profondo spazio, non possiamo uscire, e possiamo trovare dichiarazioni anche della NASA stessa su questa cosa. Right now we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. The kinds of technologies that we're testing out on Space Station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. Potete anche trovare voi stessi che tutti i dati delle missioni lunari non esistono più e che non hanno più la tecnologia per tornare sulla Luna. Lo dicono loro, ve l'ho fatto sentire, ma ve lo faccio risentire. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology and it's a painful process to build it back again. Sono Don Petit, sono un astronauta, un astronautolo. Potrei andare sulla Luna in un nanosecondo, ma non abbiamo più la tecnologia per poterlo fare. L'abbiamo distrutta e è difficile per ricostruirla di nuovo, quindi capito? I haven't seen anything that indicates the telemetry data is even in existence, and as I said, even if we had it, we don't have the machines to play it back. Unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Quindi ti chiedi cosa succede con la NASA? Perché erano in grado di andare sulla Luna sei volte tra il 1969 e il 1972? È un periodo di 3 anni e sono andati sulla Luna 6 volte e siamo qui nel 2018 e dicono che non sanno come oltrepassare la bassa orbita e non possiamo tornare sulla Luna. È strano, non credete? non tenete conto della società della Terra piatta, o meglio Flat Earth Society, perché è un gruppo controllato per far credere a chi ricerca l'argomento che sono credenze cretine e senza senso. È uno tra i primi risultati che ti dà nei motori di ricerca e non porta a niente. Chi cerca lì viene praticamente dirottato. Per il primo mese di ricerca mio volevo che la Terra fosse quello che mi era stato insegnato, ma più cercavo, più venivo risucchiato. Era un concetto assurdo. Dovevo o sbugiardarlo o mi dovevo convincere di io dovevo sapere, sono arrivato al punto che dovevo sapere per forza qual era la verità riguardo alla forma. Non so perché, ma era una cosa che mi quasi ti logora dentro a un certo punto. Vuoi sapere, ti è stato nascosto tutto, uno dice perché? Questa cosa della Terra piatta non è una cosa che prendi e tiri alle persone. Gli dici, ehi, è piatta. Ci sono centinaia e centinaia di prove che è piatta e immobile. Le persone non ti ascoltano neanche. Sicuramente c'è chi lo sa. Devi arrivare alle conclusioni per conto tuo. Quando lo fanno, allora si rendono conto. Nessuno mi è venuto a dire che è piatta. Ci sono arrivato da solo. E lo stesso dovete fare anche voi. Per quanto riguarda l'alba e il tramonto, ci sono per via della prospettiva. Come continuo a ripetere, la prospettiva è importantissima. Il sole è più piccolo e vicino e fa il suo percorso giornaliero compiendo un cerchio sopra di noi. E sembra che salga e scenda, ma per la prospettiva soltanto. Tante persone dicono che se ci fossero abbastanza prove che supportino la teoria della Terra piatta, salterebbero subito a bordo. Ma non è così. Lo dicono anche quando gli fornisci quelle certezze che ti chiedono. Continuano a dire che le barche vanno oltre l'orizzonte. Quando sei sulla spiaggia e guardi una nave andare al largo, dicono che va oltre la curvatura. Non solo che l'orizzonte è curvo, solo questo. Ma quando guardi filmati dei palloni amatoriali che salgono fino anche oltre 53 km, non c'è modo di vedere la curvatura. È vergognoso dire che le navi vanno oltre la curvatura se a oltre 50 km non riesco a vedere. Perché non puoi vedere nessuna curvatura da oltre 50 km di altezza. Quindi ci sono un sacco di contraddizioni. Fa tutto parte della programmazione che ci hanno fatto. Le persone guardano film sullo spazio o cose del genere, leggono riviste sullo spazio, amano la scienza. Ti viene detto che se vai bene, se sei forte con la scienza, sei intelligente. E le persone hanno molta difficoltà a lasciare andare quello che gli è stato detto. È un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenerci sotto controllo, al fine di convertire l'essere umano in questa. No, non è possibile. Io non ci credo. Non ho detto che sarebbe stato facile. Ho detto che ti offrivo la verità. Smettila! Fammi uscire! Fammi uscire! Si chiama dissonanza cognitiva. Quando nuove informazioni arrivano e non le puoi gestire. O scleri o continui con le vecchie informazioni, perché non vuoi essere nel torto, non vuoi sbagliare, non pensi di poter essere stato ingannato, credi di essere furbo. L'ego, la Terra piatta ha tutte le prove che volete. Mentre scavando nel modello eliocentrico non troverete nessuna prova che il Sole è a 149 milioni di chilometri, che la Terra è effettivamente curva di 20 centimetri ogni chilometro e mezzo al quadrato, nessuna prova che la Terra giri su se stessa a 1600 km/h, non ci sono prove che la Terra giri intorno al Sole a oltre 1200 km/h, nessuna prova che la Terra, né il Sole o il Sistema Solare voli intorno per la Via Lattea a una velocità di oltre 2 milioni di km/h. Questo è quello che ci insegnano, e non possiamo trovare nessuna prova, niente. Non ci sono prove che si avvicinano ad una palla rotante che schizza nello spazio. Questa è una cosa che uno guarda e vede, che è vera. Alla fine lo vedono e non ci sono prove. Quando dice alle persone che è piatta, gli viene subito in mente un disco che fluttua nello spazio, senza pensarci due volte. E non è questo il caso. Tutto quello che ci è stato detto riguardo al Sistema Solare e il globo se ne deve andare. Siamo su un piano immobile e tutto il resto gira intorno a noi, che è quello che sembra, è quello che i nostri sensi ci dicono ed è quello che vediamo. Se prendiamo una telecamera, la puntiamo al cielo di notte e facciamo un time lapse, lo vediamo che compiono un cerchio. Chi vede la Terra piatta è un numero di persone sempre più in crescita. E se non ci fosse nessuna prova, perché sarebbe in crescita? Con questo vi saluto, grazie a Radio Big World, grazie di essere stati con me. Ciao, alla prossima.